Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Proprio in questi giorni è entrata in vigore la normativa che nel nostro territorio prevede l'accensione dei riscaldamenti al massimo per 14 ore al giorno e non superando il limite di temperatura all'interno. Già nei giorni scorsi alcuni comuni avevano consentito l'accensione parziale per 7 ore visto che le temperature si erano abbassate sotto la media. Così sarà fino alla metà di aprile, salvo diverse condizioni meteo. Il riscaldamento però sappiamo che è una voce importante di spesa nei bilanci familiari e allora quale occasione migliore per dare alcuni consigli insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, riscaldamenti già partiti, ovviamente impianti che vanno poi verificati proprio nel corso di questi giorni. I consigli possono essere però significativi anche con risparmi che poi possono incidere nel bilancio della bolletta. Certo, gli impianti di riscaldamento ormai sono partiti e stanno partendo. È anche vero che molti stanno cercando anche degli espedienti per ritardare la partenza, pensiamo alle pompe di calore sui condizionatori, chi si scalda con le stufe a pellet o le stufe a legna. Molti altri invece, come anche me, hanno cominciato con il riscaldamento e certamente, come sempre in questo periodo, è bene dare dei consigli che insomma possono certamente fare risparmiare qualche soldino se utilizzato anche l'impianto di riscaldamento correttamente. Ecco, partiamo da una cosa che dovrebbe essere ovvia, cioè l'ordinaria manutenzione che va fatta anche al di fuori dei periodi freddi. Sì, certamente controllare lo stato delle tubature è sempre una cosa indicata a fare, soprattutto nel periodo dell'estate, e questo si dovrebbe fare ogni 3-4 anni circa, perché comunque dobbiamo anche pensare che se bisogna svuotare e ricaricare, certamente non è il momento opportuno per fare certi lavori. Ma altri consigli più pratici, secondo me, è opportuno pensare di valutare adesso e al limite anche attuare da subito. E il primo, come in ordine di importanza, certamente è quello di sfrugare l'aria dai radiatori per tenerli sempre alla massima efficienza, perché normalmente la gente deve sapere che dentro le condutture si possono formare delle sacche d'aria. Queste sacche d'aria impediscono una corretta circolazione dell'acqua e conseguentemente i radiatori in questo modo non si riscaldano uniformemente o potrebbero perdere molto di rendimento rispetto a quello che normalmente dovrebbero avere. Ecco, l'aria la si dovrebbe sentire anche con un po' di borbottio, no? Sì, normalmente c'è sempre sul radiatore uno sfiatino, tu l'apri, proprio senti che, come hai detto tu, un borbottio che esce, e la facciamo spurgare mettendo una bacinella sotto fin tanto che poi comincia a uscire l'acqua, allora lo chiudi, in quel momento là il radiatore è a posto. Poi un altro consiglio molto importante è quello, per esempio, di non coprire assolutamente i termosifoni, come fanno tanti che ci mettono sopra dei copri termosifoni magari per impedire che i muri si possano sporcare, perché comunque coprire termosifoni o avere le tende davanti o un mobile normalmente va a ridurre molto l'efficienza di quello che potrebbe essere la funzionalità appunto del termo, perché comunque vai anche a ridurre quelli che sono le superfici di riscaldamento e anche impedire quello che è una corretta circolazione dell'aria calda rispetto all'aria fredda. È una cosa molto importante anche quello di regolare la temperatura dell'ambiente e, se è il caso, valutare la possibilità di regolarla di un grado in meno rispetto a quella che normalmente abbiamo. Magari l'ideale sarebbe 19 gradi, massimo 20, perché vediamo che ogni volta che si abbassa di un grado rispetto a quello che normalmente eravamo abituati a tenere, si risparmia mediamente l'8%. Questa è la differenza per ogni grado di temperatura. Certo che magari 19 gradi uno potrebbe dire, insomma, un po' freddino 19. Sì, 19 gradi un po' freddino, ma poi pensiamo che altri consigli possono essere quelli di spegnere il termo magari di notte, chiudere le stanze che sono inutili riscaldare almeno in certi periodi, dotarsi di una valvola termostatica sull'apparecchio, se queste magari sono, se questi termosifoni magari non ce l'hanno o l'impianto è centralizzato. Proprio per chi ha impianti centralizzati, contattare l'amministratore condominiale, farsi mettere almeno un contacalorie per cercare di pagare quello che è equo pagare e non pagare l'eccesso, come tanti si sono lamentati a doversi magari aprire le finestre perché muoiono dal caldo e loro pagare un sacco di soldi quando potrebbero stare con temperature molto più gradevoli, o anche perché magari durante il giorno lavoro non c'è nessuno. Coibentare il cassetto degli avvolgibili, che molte volte è una cosa che si trascura, per chi ha il caminetto sapere che il caminetto quando è spento potrebbe fare l'effetto contrario, cioè tirare l'aria fredda da fuori e buttarla dentro per un effetto proprio di tiraggio che la canna a fumare deve avere, quindi verificare che non ci sia questo tiraggio equicorrente e al limite chiudere il caminetto davanti, davanti se si ha questo dubbio. E per chi deve farsi una casa o acquistare una caldaia nuova, valutare sempre una caldaia a condensazione, valutare sempre la possibilità di adottare certe precauzioni nel momento della realizzazione dell'opera, anche nei serramenti come i vetrocamera o come i cappottini, perché comunque sono accorgimenti che poi nel tempo ripagano l'investimento che si è fatto. Ecco, anche la programmazione poi degli orari credo sia importante. È chiaro che se all'interno ci sono dentro casa anziani o bambini, chiaramente c'è bisogno di un certo tipo di temperatura, ma se si sta fuori casa è ovvio che la programmazione va fatta a seconda di poi di come viene utilizzato l'ambiente. Sì, la programmazione è molto importante, però fate attenzione che creare troppi stacchi, accendo spengo, ed evitare invece una regolamentazione abbastanza omogenea, alla fine si rischia di pagare molto di più, perché la caldaia poi accade che nelle 24 ore non lavora più in regime di regolamentazione della temperatura, ma lavora come una locomotiva per poter raggiungere quella temperatura che in quelle fasce orarie viene richiesto di portare l'ambiente. Per cui sono cose che insomma poi uno deve anche ottimizzare in base alla propria esperienza. Da ultimo voglio anche ricordare quello che è un costo circa che il metro cubo del gas ha, che è una domanda che molti chiedono, che si fa sempre fatica a capire perché sempre ci sono un sacco di addizionali, di accise e di IVA che vanno a rivalutarlo. Normalmente abbiamo visto che per chi consuma mediamente 1400 metri cubi all'anno, nella fascia tra 1200-1400 metri cubi, il prezzo grosso modo è intorno a circa 0,95-1 al metro cubo, quindi anche questo può aiutare il consumatore a farsi due calcoli quanto andrà a spendere nell'arco dell'anno. Il costo netto del gas a cui vanno aggiunte tutte le tasse? No, noi abbiamo già calcolato costo complessivo. Il costo netto, sì, perché se non abbiamo voluto semplificare comunque quello che è già una voce molto difficile da comprendere. Diciamo che ricalcolando tutte le tasse, compreso l'IVA, alla fine si deve considerare che circa un costo di metro cubo è circa 1 euro al metro cubo, sì, poco meno, per chi consuma grosso modo non più di 1500 metri cubi all'anno, perché poi altrimenti questo prezzo si rivaluta e si va intorno all'1,10. Sì, più si consuma più si spende, cioè si spende un prezzo unitario più alto, questo anche nelle altre, sia per l'acqua che per l'energia elettrica. Addirittura ti voglio dire che per chi consuma pochissimo, parliamo veramente nell'ordine di meno di 400 metri cubi all'anno, il prezzo è di circa 0,8, per chi arriva a consumare 4.000 metri cubi il prezzo è 1,2, quindi ecco, in questo range bisogna un po' considerare quello che in grosso modo è il nostro costo in ambito domestico, non certamente in ambito industriale. Tenete conto allora di questi consigli insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che ritroviamo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.